L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Undicesima puntata. Cloridano e Medoro. Lettura poetica di Giorgio Albertazzi. Narratore Gianni Bonagura. Fin qui abbiamo seguito le vicende dei capitani, nelle loro gesta e nelle loro bravate, nella loro forza sovrumana e nel loro dominio d'oggetti magici. Ora, addentrandoci nella fitta selva di lance della battaglia di Parigi, vedremo i soldati semplici venire in primo piano, con le loro risorse umane modeste ed ostinate, il loro coraggio, le loro incertezze, la loro pietà. Le sorti della battaglia sono avverse ai saraceni. 80.000 morti essi lasciano in quella giornata. Anche il loro più giovane condottiero, Dardinello, figlio dal monte, è caduto ucciso da Rinaldo. Re Agramante dà ordine alle sue schiere di ritirarsi negli accampamenti. Nella notte, dal campo dei Mori, s'alzano i pianti per le vittime della battaglia. Due reclute del reggimento di Dardinello, poco più che ragazzi, piangono il loro comandante e decidono d'andare a recuperarne la salma. La loro spedizione notturna è un doppio viaggio tra i morti. Prima attraversano il campo nemico, tra i soldati cristiani che giacciono disordinatamente dove li ha colti il sonno e dove li inchioderà la morte portata dai due giovani vendicatori. Poi, tra i cadaveri sparsi sul campo di battaglia. Come faranno nel buio a riconoscere Dardinello in mezzo a tanti morti? Medoro prega la dea luna. Le nubi s'aprono. Alla luce lunare, tutta Parigi si dispiega sotto i loro occhi, da Montmartre a Montlhéry. Tutta la notte per gli alloggiamenti dei mal sicuri saracini oppressi si versan pianti, gemiti e lamenti, ma quanto più si può, cheti e soppressi. Altri perché gli amici hanno i parenti lasciati morti ed altri per se stessi, che son feriti e con disagio stanno, ma più è la tema del futuro danno. Duo Mori ivi tra gli altri si trovaro, d'oscura stirpe nati in Tolomitta, de quai l'istoria, per esempio raro, di vero amore è degna esser descritta. Cloridano e Medor si nominaro, ch'alla fortuna prospera e all'afflitta aveano sempre amato Dardinello, ed or passato in Francia il mar con quello. Cloridan, cacciator tutta sua vita, di robusta persona era e tisnella. Medoro avea la guancia colorita e bianca e grata nella età novella, e fra la gente a quella impresa uscita non era faccia più gioconda e bella. Occhi avea neri e chioma crespa d'oro, angel parea di quei del sommo coro. Eran questi duo sopra i ripari con molti altri a guardar gli alloggiamenti, quando la notte fra distanzi e pari mirava il ciel con gli occhi sonnolenti. Medoro quivi in tutti i suoi parlari non può far che il signor suo non rammenti, Dardinello dal monte, e che non piagna, che resti senza onor nella campagna. Volto al compagno disse: «O Cloridano, io non ti posso dir quanto mi incresca del mio signor che sia rimaso al piano, per lupi e corbi, oimè, troppo degna esca. Pensando come sempre mi fu umano, mi par che quando ancor quest'anima esca in onor di sua fama, io non compensi, né sciolga verso lui gli obblighi immensi. Io voglio andare, perché non stia insepolto, in mezzo alla campagna a ritrovarlo, e forse Dio vorrà che io vada occulto, là dove tace il campo del re Carlo. Tu rimarrai, che quando in ciel sia sculto che io vi debba morir, potrai narrarlo, che se fortuna vieta sì bell'opera, per fama almeno il mio buon cor si scuopra». Stupisce Cloridan che tanto core, tanto amor, tanta fede abbia un fanciullo, e cerca assai, perché gli porta amore, di fargli quel pensiero irrito e nullo, ma non gli val. Per cun sì gran dolore non riceve conforto né trastullo. Medoro era disposto o di morire o nella tomba il suo signor coprire. Veduto che non piega e che non muove, Cloridan gli risponde: e verrò anch'io, anch'io vuo pormi a si lodevol prove, anch'io famosa morte amo e disio. Qualcosa sarà mai che più mi giove, se io resto senza te, Medoro mio. Morir teco con l'armi è meglio molto, che poi di duol s'avvien che mi sii tolto. Così disposti, messero in quel luogo le successive guardie e se ne vanno. Lascian fosse e steccati, e dopo poco tra nostri son, che senza cura stanno. Il campo dorme, e tutto è spento il fuoco, perché dei saracin poca tema hanno. Tra l'arme e carriaggi stan roversi, nel vin, nel sonno insino agli occhi immersi. Fermossi alquanto Cloridano e disse: non son mai da lasciar l'occasioni di questo stuol che il mio signor trafisse, non debbo farme d'oro occisioni? Tu, perché sopra alcun non ci venisse, gli occhi e le orecchi in ogni parte poni, ch'io m'offerisco farti con la spada tra gli nemici spaziosa strada. Così disse egli, e tosto il parlar tenne ed entrò dove il dotto Alfeo dormia, che l'anno innanzi in corte a Carlo venne, medico e mago e pien d'astrologia. Ma poco a questa volta gli sovvenne, anzi gli disse in tutto la bugia. Predetto egli savea che danni pieno dovea morire alla sua moglie in seno, e tor gli ha messo il cauto saracino la punta della spada nella gola. Quattro altri uccide appresso all'indovino, che non han tempo a dire una parola. Menzion dei nomi lor non fa turpino, e lungo andar le lor notizie invola. Dopo essi Palidon da Moncalieri, che sicuro dormia fra duo destrieri. Poi se ne vien dove col capo giace, appoggiato al barile il miser Grillo. Avea lo voto e avea creduto in pace godersi un sonno placido e tranquillo. Troncogli il capo il saracino audace. Esce col sangue il vin per uno spillo, di che n'ha in corpo più d'una bigoncia, e di ber sogna, e Cloridan lo sconcia. E presso a Grillo, un greco ed un tedesco, spegne in due colpi Andropono e Conrado, che della notte avean goduto al fresco gran parte, or con la tazza, ora col dado, felici se vegghiar sapeano adesco, finché dell'indo il sol passasse il guado. Ma non potria negli uomini il destino, se del futuro ognun fosse indovino. Come in pasto leone in stalla piena, che lunga fame abbia smacrato e asciutto, uccide, scanna, mangia, a strazio mena, l'infermo gregge in sua balia condutto, così il crudel pagan nel sonno svena la nostra gente e fa macel per tutto. La spada di Medoro anco non ebbe, ma si sdegna ferir l'ignobil plebe. Venuto era ove il duca di Labretto con una dama sua dormia abbracciato, e l'un con l'altro si tenea sì stretto che non saria tra lor l'aere entrato. Medoro ad ambi taglia il capo netto. Oh felice morire, oh dolce fato, che come erano i corpi, oh così fede, ch'andar l'alme abbracciate alla lor sede. Malindo uccise e Ardalico il fratello, che del conte di Fiandra erano figli, e l'uno e l'altro cavalier novello fatto avea Carlo e aggiunto all'arme i gigli, perché il giorno Amendui d'ostil macello con gli stocchi tornar vide vermigli. E terra infrisa avea promesso loro, e date avria, ma lo vietò Medoro. Gli insidiosi ferri eran vicini ai padiglioni che tiraro in volta al padiglion di Carlo i paladini, facendo ognun la guardia la sua volta, quando dall'empia strage i saracini trasson le spade, e diero a tempo volta, che impossibil lor par tra sì gran torma che non s'abbia a trovar un che non dorma. E ben che possan gir di preda carchi, salvin pur sé, che fanno assai guadagno. Ove più creda aver sicuri i varchi, va Cloridano e dietro ha il suo compagno. Vengon nel campo, ove fra spade ed archi, e scudi e lance in un vermiglio stagno, giaccion poveri e ricchi, e re vassalli, e sozzopra con gli uomini cavalli. Quivi dei corpi l'orrida mistura, che piena vea la gran campagna intorno, potea far vaneggiar la fedel cura dei duo compagni insino al far del giorno, se non traea fuor d'una nube oscura a prieghi di Medor la luna il corno. Medoro in ciel divotamente fisse verso la luna gli occhi e così disse: «O santa Dea, che dagli antichi nostri debitamente sei detta triforme, che in cielo, in terra e nell'inferno mostri l'alta bellezza tua sotto più forme, e nelle selve di fere e di mostri vai cacciatrice seguitando l'orme, mostrami, ove il mio re giaccia fra tanti, che vivendo imitò tuoi studi santi». La luna a quel pregar la nube aperse, o fosse caso, oppur la tanta fede, bella come fu allor ch'ella sofferse, e nuda in braccio a Endimion si diede. Con Parigi a quel lume si scoperse l'un campo e l'altro, e il monte e il pian si vede. Si videro i due colli di lontano, martire a destra e l'eria all'altra mano. Rifulse lo splendor molto più chiaro, ove dal monte giacea morto il figlio. Medoro andò piangendo al signor caro, che conobbe il quartier bianco e vermiglio, e tutto il viso gli bagnò d'amaro pianto, che n'avea un rio sotto ogni ciglio, in sì dolci atti, in sì dolci lamenti, che potea ad ascoltar fermare i venti. Ma con sommessa voce appena udita, non che riguardi a non si fer sentire, perché abbia alcun pensier della sua vita, piuttosto l'odia e ne vorrebbe uscire, ma per timor che non gli sia impedita l'opera pia che qui vi fe venire. Fu il morto re sugli omeri sospeso, di tramendui tra lor partendo il peso. Vanno affrettando i passi quanto ponno sotto l'amata soma che gli ingombra. E già venia chi della luce è donno, le stelle a tor del ciel, di terra l'ombra, quando Zerbino, a cui del petto il sonno, l'alta virtute, ove è bisogno, sgombra, cacciato avendo tutta notte i mori, al campo si traea nei primi albori. E seco alquanti cavalieri avea che videro da lunge i due compagni. Ciascuno a quella parte si traea, sperandovi trovar prede e guadagni. «Frate, bisogna, Cloridan dicea, gittar la soma e dare opra ai calcagni, che sarebbe pensier non troppo accorto perder due vivi per salvare un morto». E gittò il carco, perché si pensava che il suo Medoro il simil far dovesse. Ma quel meschin, che il suo signor più amava, sopra le spalle sue tutto lo resse. L'altro con molta fretta se n'andava, come l'amico a paro dietro avesse. Se sapea di lasciarlo a quella sorte, mille aspettate avria, non ch'una morte. Quei cavalier con animo disposto, che questi a render s'abbino a morire, chi qua chi là si spargono, e tantosto preso ogni passo onde si possa uscire. Da loro il capitan, poco discosto, più degli altri è sollicito a seguire, che in tal guisa vedendoli temere, certo è che sian delle nemiche schiere. Era a quel tempo ivi una selva antica, d'ombrose piante spessa e di virgolti, che come labirinto entro s'intrica di stretti calli e sol da bestie culti. Speran d'averla i duo pagan sì amica, ch'abbia a tenerli entro a suoi rami occulti. Cloridano e Medoro stanno tornando al campo sul far dell'alba, reggendo la salma di Dardinello tra le braccia, quando li avvista una pattuglia di scozzesi guidata da Zerbino. Per fuggire, Cloridano, più saggio, abbandona il carico, sicuro di venire imitato dal compagno. Ma il tenace Medoro non si sente di lasciare il corpo del suo capitano in pasto ai corvi e procede reggendolo con le sole sue forze. Presto finisce circondato dai nemici. Già Zerbino sta per passarlo a fil di spada, ma, commosso dalla giovinezza del soldato e dalla sua fedeltà al comandante caduto, gli fa grazia. In quella, uno degli scozzesi, uomo brutale, senza tener conto degli ordini del suo capitano, pianta la sua lancia nel petto di Medoro. Mentre Zerbino insegue il suo sleale soldato per punirlo, Cloridano, che sopraggiungeva in cerca del compagno smarrito, al vederlo cadere, si butta in mezzo ai cristiani e ne fa strage, finché non cade a sua volta ucciso. Una sola pozza di sangue accoglie i corpi dei due compagni e quello già freddo del loro signore. È il dovere feudale che si celebra in questo sacrificio? Forse qualcosa di più antico e duraturo, la solidarietà della giovinezza. alcun non può saper da chi sia amato, quando felice in sulla ruota siede. Però c'ha i veri e i finti amici al lato, che mostran tutti una medesma fede. Se poi si cangia in tristo il lieto stato, volta la turba adulatrice il piede, e quel che di cor ama riman forte, ed ama il suo signor dopo la morte. Se come il viso si mostrasse il core, tal nella corte è grande gli altri preme, e tale in poca grazia suo signore, che la lor sorte muteriano insieme. Questo umil diverria tosto il maggiore, staria quel grande in fra le turbe estreme. Ma torniamo a Medor, fedele e grato, che in vita e in morte ha il suo signore amato. Cercando Gia nel più intricato calle, il giovine infelice di salvarsi, ma il grave peso che avea sulle spalle gli facea uscir tutti i partiti scarsi. Non conosce il paese e la via falle, e torna fra le spine a invilupparsi. Lungi da lui tratto al sicuro s'era l'altro c'avea la spalla più leggera. Cloridan s'è ridotto ove non sente di chi segue lo strepito e il rumore, ma quando da Medor si vede absente gli pare aver lasciato addietro il core. «Deh, come fui!» dicea sì negligente. «Deh, come fui!» «Sì, di me stesso fuore, che senza te, Medor, qui mi ritrassi, né sappia quando o dove io ti lasciassi!» Così dicendo, nella torta via dell'intricata selva si ricaccia, e t'onde era venuto si ravvia, e torna di sua morte in sulla traccia. Ode i cavalli e i gridi tuttavia, e la nemica voce che minaccia. All'ultimo ode il suo Medoro, e vede che tra molti a cavallo è solo a piede. 100 a cavallo, e gli son tutti intorno. Zerbin comanda e grida che sia preso. L'infelice s'aggira come un torno, e quanto può si tien da lor difeso, or dietro quercia, or olmo, or faggio, or orno, né si discosta mai dal caro peso. L'ha riposato al fin sull'erba, quando regger nol puote, e gli va intorno errando, come orsa che l'alpestre cacciatore nella pietrosa tana assalita abbia, sta sopra i figli con incerto core e freme in suono di pietà e di rabbia. Ira l'anvita e natural furore a spiegar l'ugna e insanguinar le labbia, amor l'antenerisce e la ritira a riguardare ai figli in mezzo l'ira. Cloridan, che non sa come l'aiuti e che esser vuole a morir seco ancora, ma non che in morte prima il viver muti, che via non trovi ove più d'un ne mora, mette sull'arco un dei suoi strali acuti e nascoso con quel sì ben lavora che fora ad uno scotto le cervella e senza vita il fa cader di sella. Volgonsi tutti gli altri a quella banda onde era uscito il calamo omicida. Intanto un altro il saracin ne manda perché il secondo allato al primo uccida, che mentre in fretta a questo e a quel domanda chi tirato abbia l'arco e forte grida, lo strale arriva e gli passa la gola e gli taglia pel mezzo la parola. Or Zerbin, che era il capitano loro, non potea a questo aver più pazienza. Con ira e con furor venne a Medoro, dicendo: «Ne farai tu penitenza!» Stese la mano in quella chioma d'oro e strascinollo a sé con violenza, ma come gli occhi a quel bel volto mise, gli ne venne pietade e non l'uccise. Il giovinetto si rivolse a Prieghi e disse: «Cavalier, per lo tuo Dio, non esser sì crudel che tu mi nieghi ch'io seppellisca il corpo del re mio. Non vo ch'altra pietà per me ti pieghi, né pensi che di vita abbi disio. Ho tanta di mia vita e non più cura quanta che al mio signor dia sepoltura. E seppur pascer voi fiere e taugelli, che in te il furor sia del Teban Creonte, fa lor convito di miei membri e quelli seppellir l'ascia del figliol dal monte.» Così dicea Medor con modi belli e con parole atte a voltare un monte, e sì commosso già Zerbino avea che d'amor tutto e di pietade ardea. In questo mezzo un cavalier villano, avendo al suo signor poco rispetto, ferì con una lancia sopra mano al supplicante il delicato petto. Spiacque a Zerbin l'atto crudele e strano, tanto più che del colpo il giovinetto vide cader sì sbigottito e smorto, che in tutto giudicò che fosse morto. E se ne sdegnò in guisa e se ne dolse, che disse: «Invendicato già non fia!» E pien di mal talento si rivolse al cavalier che fe l'impresa ria, ma quel prese vantaggio e se gli tolse dinanzi in un momento e fuggì via. Cloridan, che Medor vede per terra, salta del bosco a discoperta guerra. E getta l'arco, e tutto pien di rabbia, tra gli nemici il ferro intorno gira, più per morir che per pensier che gli abbia di far vendetta che pareggi l'ira. Del proprio sangue rosseggiar la sabbia fra tante spade, al fin venirsi mira. E tolto che si sente ogni potere, si lascia accanto al suo Medor cadere. Seguon gli scotti ove la guida loro per l'alta selva alto disdegno mena, poiché lasciato all'uno e l'altro moro, l'un morto in tutto e l'altro vivo appena. Giacque gran pezzo il giovine Medoro, spicciando il sangue da sì larga vena, che di sua vita al fin saria venuto, se non sopravvenia chi gli die aiuto. Medoro viene lasciato per morto, ma il suo cuore batte ancora. Chi è che si china sul suo corpo ferito e s'affretta a portargli soccorso? Una pastorella, si direbbe, a giudicare dalla veste. Ma l'aria di sprezzante orgoglio con cui questa giovane s'aggira in sella al suo palafreno basta a richiamarci alla mente un personaggio a noi noto sotto altre spoglie: Angelica, principessa del Catai. Il solo piacere di questa donna è sempre stato quello di far impazzire d'amore i più gloriosi cavalieri e farseli correre dietro senza lasciarsi mai acchiappare. E da quando è tornata in possesso del suo anello magico e ha trovato rifugio presso una famiglia di pastori, si sente più sdegnosa e ardita che mai. Ed ecco che la vista di Medoro ferito muove qualcosa in quel gelido cuore. Dapprima è solo la pietà e la soddisfazione di mettere in opera le arti mediche apprese in Oriente. Ma poi che con le erbe ha guarito la ferita, man mano che Medoro, ospitato anche lui dai pastori, riacquista colorito e bellezza, ecco che per la prima volta, senza l'intervento di incantesimi, Angelica si sente innamorare. La Magliarda, che aveva guardato dall'alto in basso i più audaci capitani degli opposti eserciti, da Orlando a Sacripante, da Ferraù a Rinaldo, finisce per perdere la testa per un semplice soldato di fanteria. Forse a rassicurarla è l'aspetto solido e tranquillo di questo ragazzotto moro dalla testa bionda, così diverso dai suoi corteggiatori abituali, sempre carichi di tensione e aggressività e ansia di primeggiare. La verità è che prima d'aver incontrato Medoro, Angelica non avrebbe mai saputo immaginare un marito ideale, e ora che l'ha trovato non se lo lascia scappare. In 448, lì, tra i pastori, se lo sposa e decide di portarlo con sé in Oriente e farlo incoronare imperatore del Catai. Gli sopravvenne a caso una donzella, avvolta in pastorale tumil veste, ma di real presenzia, in viso bella, d'alte maniere e accortamente oneste. Tanto è che io non ne dissi più novella, ch'appena riconoscerla dovreste. Questa, se non sapete, Angelica era, del gran can del Catai, la figlia altiera. Poiché il suo anello Angelica riebbe, di che Brunella avea tenuta priva, in tanto fasto, in tanto orgoglio crebbe che esser parea di tutto il mondo schiva. Se ne va sola e non si degnerebbe compagno aver qual più famoso viva. Si sdegna a rimembrar che già suo amante abbia Orlando nomato o Sacripante. E sopra ogni altro error via più pentita era del ben che già Rinaldo volse, troppo parendole essersi avilita, ch'a riguardarsi basso gli occhi volse. Tanta arroganzia, avendo amor sentita, più lungamente comportar non volse. Dove giacea Medor, si pose al varco e l'aspettò, posto lo strale all'arco. Quando Angelica vide il giovinetto, languir ferito, assai vicino a morte, che del suo re che giacea senza tetto, più che del proprio mal si dolea forte, insolita pietade in mezzo al petto, si sentì entrar per disusate porte, che le fe il duro cor tenero e molle, e più quando il suo caso egli narrolle. E rivocando alla memoria l'arte che in India imparò già di chirurgia, che par che questo studio in quella parte nobile e degno e di gran laude sia, e senza molto rivoltar di carte, che il padre ai figli ereditario il dia, si dispose operar con succo d'erbe ch'a più matura vita lo riserbe. E ricordossi che passando avea veduta un'erba in una piaggia amena, fosse di tamo o fosse panacea o non so qual, di tale effetto piena che stagna il sangue e della piaga rea leva ogni spasmo e perigliosa pena. La trovò non lontana e quella colta dove lasciato avea Medor die volta. Nel ritornar si incontra in un pastore che a cavallo pel bosco ne veniva cercando una juvenca che già fuore duo dì di mandra e senza guardia agiva. Secolo trasse ove perdea il vigore Medor col sangue che del petto usciva e già n'avea di tanto il terren tinto che era ormai presso a rimanere estinto. Del palafreno Angelica giù scese e scendere il pastor seco fece anche. Pestò con sassi l'erba indi la prese e succo ne cavò fra le man bianche. Nella piaga n'infuse e ne distese e pel petto e pel ventre e fino all'anche e fu di tal virtù questo liquore che stagnò il sangue e gli tornò il vigore e gli die forza che poté salire sopra il cavallo che il pastor condusse. Non però volse indi Medor partire prima che in terra il suo signor non fosse e Cloridan col re fe sepelire e poi dove a lei piacque si ridusse. Ed ella per pietà nell'umil case del cortese pastor seco rimase, né finché non tornasse in sanitade volea partir, così di lui fe stima, tanto se intenerì della pietade che n'ebbe, come in terra il vide prima. Poi, visto nei costumi e la beltade, roder si sentì il cor d'ascosa lima, roder si sentì il core a poco, tutto infiammato d'amoroso fuoco. Stava il pastore in assai buona e bella stanza nel bosco infra due monti piatta con la moglie e coi figli e t'avea quella tutta di nuovo e poco innanzi fatta. Quivi a Medoro fu per la donzella la piaga in breve a sanità ritratta, ma in minor tempo si sentì maggiore piaga di questa avere ella nel core. Assai più larga piaga e più profonda nel cor sentì da non veduto strale che da begli occhi e dalla testa bionda di Medoro avventò l'arcer callale. Arder si sente e sempre il fuoco abbonda e più cura l'altrui che il proprio male. Di sé non cura e non è ad altro intenta che risanar chi lei fere e tormenta. La sua piaga più s'apre e più incrudisce quanto più l'altra si ristringe e salda. Il giovine si sana e la languisce di nuova febbre ora agghiacciata or calda. Di giorno in giorno in lui beltà fiorisce, la misera si strugge come falda strugger di neve in tempestiva suole chi in loco aprico abbia scoperta il sole. Se di disio non vuol morir bisogna che senza indugio ella se stessa iti, e ben le par che di quel che essa agogna non sia tempo aspettar ch'altri l'anviti. Dunque rotto ogni freno di vergogna la lingua ebbe non men che gli occhi arditi e di quel colpo domandò mercede che forse non sapendo esso le diede. O conte Orlando, o re di Circassia, vostra inclita virtù dite che giova, vostro alto onor dite in che prezzo sia o che mercè vostro servir ritruova. Mostratemi una sola cortesia che mai costei v'usasse o vecchia o nuova per ricompensa e guiderdone e merto di quanto avete già per lei sofferto. Oh, se potessi ritornar mai vivo quanto ti parria duro, o re Agricane, che già mostrò costei sì averti a schivo con ripulse crudeli et inumane, o Ferraù, o mille altri ch'io non scrivo, che avete fatto mille pruove vane per questa ingrata, quanto aspro vi fora, sa costù in braccio voi la vedesse ora. Angelica a Medor la prima rosa coglier lasciò, non ancor tocca in ante, né persona fu mai sì avventurosa che in quel giardin potesse por le piante. Per adombrar, per onestar la cosa, si celebrò con cerimonie sante il matrimonio, ch'auspice ebbe amore e pronuba la moglie del pastore. Fersi le nozze sotto al lume il tetto, le più solenni che vi potean farsi, e più d'un mese poi stero a diletto i duo tranquilli amanti a ricrearsi. Più lunge non vedea del giovinetto la donna, né di lui potea saziarsi, né per mai sempre pendergli dal collo il suo disir sentia di lui satollo. Se stava all'ombra o se del tetto usciva, avea dì e notte il bel giovine allato. Mattino e sera, or questa or quella riva, cercando andava o qualche verde prato. Nel mezzogiorno un antro li copriva, forse non men di quel, commodo e grato, ch'ebber fuggendo l'acque Enea e Dido, de lor secreti testimonio fido. Fra piacer tanti, ovunque un arbor dritto vedesse ombrare o fonte o rivo puro, v'avea spillo coltel subito fitto. Così se v'era alcun sasso men duro, ed era fuori mille luoghi scritto, e così in casa in altri tanti il muro, Angelica e Medoro, in vari modi, legati insieme di diversi nodi. Poiché le parve aver fatto soggiorno, quivi più ch'abbastanza fe di segno di fare in India del Catai ritorno, e Medor coronar del suo bel regno. Portava al braccio un cerchio d'oro, adorno di ricche gemme, in testimonio e segno del ben che il conte Orlando le volea, e portato gran tempo ve l'avea. Quel donò già Morgana a Ziliante, nel tempo che nel lago ascoso il tenne, ed esso, poi ch'al padre Monodante, per opra e per virtù d'Orlando venne, lo diede a Orlando. Orlando, che era amante, di porsi al braccio il cerchio d'or sostenne, avendo disegnato di donarlo alla regina sua di ch'io vi parlo. Non per amor del paladino, quanto perché era ricco ed artificio egregio, caro avuto l'avea la donna tanto, che più non si può aver cosa di pregio. Se lo serbò nell'isola del pianto, non so già dirvi con che privilegio, là dove esposta al marin mostro nuda, fu dalla gente inospitale e cruda. Quivi, non si trovando altra mercede che al buon pastore dalla moglie dessi, che serviti gli avea con sì gran fede, dal dì che nel suo albergo si fur messi, levò dal braccio il cerchio e glielo diede, e volse per suo amor che lo tenessi. Indi saliron verso la montagna che divide la Francia dalla Spagna. Dentro a Valenza o dentro a Barcellona, per qualche giorno avean pensato porsi, finché accadesse alcuna nave buona che per Levante apparecchiasse a sciorsi. Videro il mar scoprir sotto a Girona, nello smontar giù dei montani d'orsi, e costeggiando a man sinistra il lito, a Barcellona andar pel camin trito. Ma non vi giunser prima qu'un uom pazzo giacer trovaro in sulle estreme arene, che come porco, di loto e di guazzo, tutto era brutto, e volto e petto e schene. Costui si scagliò lor come cagnazzo, ch'a salir forestier subito viene, e die lor noia, e fu per far lor scorno. Chi sia questo pazzo ignudo in cui i due sposi s'imbattono, verrà spiegato a suo tempo. Abbiamo trasmesso l'undicesima puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.